sarebbe bene, non lo vuoi contare. Scusa un attimo, ma che notte c'è la partita, mi chiama Juventus. E non dici così a che ora? E dovrebbe essere alle 9:04, suppongo, la partita di Coppa, quella che è stata fatta con quella squadra turca, Transport, come si chiama, non me lo ricordo mai con l'esattezza. C'è il ritorno, no? E allora, adesso fra un po' ceniamo, tu mi guardo la partitella e poi se c'è qualcuno faccio due chiacchiere, sì, se non si fa tardi, che non immagini quegli occhi. Va bene, grazie Giuliette, tu informami sempre perché a volte mi sfugge, soprattutto le coppe mi stanno sfuggendo, il campionato no, ma le coppe mi stanno sfuggendo. Grazie dell'info. Ok, niente, figurati, sì, oggi c'è la partita, no? Non ci sono dubbi. Mi ricordo benissimo che c'è la partita della Juve, sì. Ok, ciao a tutti di nuovo, Ciao. Avanti, Luca, che vuoi parlare? Palla con muro. Oh, mica, ci ho mangiato un piatto di patate fritte con ketchup. Uia, cosa fanno? Uia. Aspetta che ci manca la frutta. Tu sei stato dentro e fuori, sapendo che non posso mangiare nulla. Adesso devo andare a farmi, sai che cosa? La crema, i funghi porcini, me li devo mangiare stasera, farla raffreddare e poi mangiare. E fino a quando ne hai? Fino ai punti quando te li tolgo? 15 giorni devo stare. Vabbè, piano poi già si mette tutto a posto. Se non l'ho già compreso lui, se dopo la gira ho chiesto il computer, così hai detto, no? Quindi non si può mettere a posto, così è. Allora, aspetta, no, ti spiego. Siccome c'ho caricabatterie mio, no? Non vorrei che sia danneggiato l'ingresso dell'alimentazione. Perché meno male non è attaccata la scheda madre, è quel cavettino, no? Ha il caso, no? Stavo dicendo il tipo, ma non è la batteria, dice che funziona il computer, ma non capisco il perché non parte. Cioè non parte con l'alimentatore suo. Si accende la lucettina, ma non dà l'impulso per farlo partire. Non so che l'hanno fatto, bravo. Ci ho preso solo tempo, ma stavo controllando per vedere un po'. Ma se vuole io gli ho il pezzo. Sì, la terza l'attenzione che l'ingresso dell'alimentazione. Sono fuori. Se no, si arrangia. Ho capito. Quelle sono cose che possono succedere, nel senso vabbè, non cadere per terra così, bisogna stare attenti, vabbè, vedi se puoi ripararlo, fai sempre risparmiare, capito, tutto qua, un'altra cosa che sono privilegio. Esce un tuo bomba che sto scioltando è micidiale. Ok, va bene, avanti io. E mi sa che vado a farmi a pappette e così la metà la fredda, se non mangia di visite. Là si mangia di tutto canto, roba buona, di qui tutti mangiano, ma buono questo qui, mamma mia, è convinti, so, sai quanto mi danno fastidio. Qua lo fanno spesso, mi quella crema di asparagi, crema di funghi, dice cose così, la mangio anch'io, solo che a me siccome non mi sazia, a chi mi piace un bene, è come quando fanno il brodo, no? Eccetera, minestrina non le mette mia moglie, allora io mi boto la zuppetta, ho di fette biscottate, ho di spianatina 2 col formaggio sopra eccetera, mentre ho bisogno e poi ci chissà io in mezzo mi pongo la fette biscottate già, però è molto buona come gusto. Sì, quella dei funghi porcini è la migliore secondo me, ho mangiato quella di asparagi, ma quella dei funghi porcini era più buona. Io non ne mangiavo mai queste cose, lo sai, non ne avevo mai mangiate, sinceramente, però adesso che ne ho bisogno ho oppure ho preso anche il passato di verdure, ma io sono Marieva, non mi piace quello, il passato di verdure non mi piace, è proprio a quetta, non si vede una verdura, nulla, in trasparenza non si vede, invece quello di funghi rimane denso, bello, poi sono quelli che no, sono quelli buoni. No, quelli sono buoni, buoni perché li compra anche mia moglie. Per quanto riguarda il passato di verdura, mia moglie lo fa lei, quindi compra tutte le verdure, le bollisce tutte assieme e poi le passa col frullatore, capito? E allora il gusto c'è perché diventa proprio una crema bella densa, buonissima, molto molto buona. Perché la crema di verdure non mi piace neanche a me, chi sa comparare. Mentre quelle creme lì di asparagi, funghi, poi peraltro, ce ne sono un sacco. Quelle sono molto molto buone, a me piacciono. Però mangio di buoni lo supplemento, prego. Anche il risotto ho mangiato. Oggi a pranzo ho provato a mangiare quella crema di risotto con la crema di funghi porcini. E gli altri farato, non lo sto facendo andare, diciamo, non mastico, rango io così, ma qualche cosa di sostanza la devo mangiare by forza. No, le spremute già vanno. barba via. Se vediamo 20 gradi, no, quanti gradi ci sono? Sono 22 gradi ci sono. So che ricuzza, mi sta, è venuto a fare utile. Dai, andiamo a mangiare. Allora, ci sentiamo dopo, se mangiare. Vedo magari questa partita cosa dice, poi se ci siete già rientro. Quindi va bene questa modulazione, non avete detto niente, lascio tutto così, sempre C80 MC60, ok? Vabbè, è una buona carica quando la fai. C'è qualcuno che mi ha chiamato poco fa, avanti. Luca, ma niente a dire la verità. Ma lo trovo Finocchio. Anche Finocchio è stifa. Io poi stamattina via Pascoli già, buoni, a tenere i teneri. Beh, non le prese le arancia, cazzo poco sono buone con le arancia. Dolci, dolci, non c'è bisogno manco di zucchero, ti puoi fare la spremuta e mettere così. Ma anche le arance, le banane, tutto comprato. E lì già si può comprare, dico la verità. Anche più avanti è il cugino, mi pare, quello che c'è, dove c'è Trucchi. Là, sono parenti. Hanno usato una buona strategia. Stanno guadagnando sulla quantità. Non interessa guadagnarci sul chilo e farsi concorrenza con gli altri. Loro fanno concorrenza agli altri e ci guadagnano sulla quantità. Basta, quindi la buca gli altri. Scusa Claudio, ci sei ancora, scusate. Via. Allora, io penso che domani, oggi c'è il Real Madrid in televisione. La Juventus gioca domani. Io mi ricordavo che era oggi, invece no, adesso guardate i programmi e le domande la Juventus. Ma c'è Real Madrid? Schalke 04, una cosa del genere, non mi ricordo quella squadra. Forse la squadra tedesca, boh. Vabbè, adesso va bene da pure un po' di Real Madrid, con Ronaldo, una grande squadra. Va bene, grazie allora, sempre dell'info. E allora come stiamo a proporre il radio, va bene, avanti già. Ok, vi saluto di nuovo, dai, sono salito appunto, riacceso per comunicarlo. Ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao, ciao, anche a Claudio. Avanti, Luca, Claudio. Puta verdura, sembra che poi io secondo male i denti, che si credo che fatti. Come succede? No, ci ha mirato. Non la vedi così già. No, qua. Vediamo me fanno male i denti. No. Sono una cosa che bisogna curare da subito. Io ancora sto andando bene, però bisogna stare sempre allerta perché è una cosa molto molto delicata. Praticamente ti hanno messo i piedi nelle radici già così, mia madre ha fatto quell'intervento, mamma mia. Come i piedi nelle radici? Allora, te lo dico io cosa mi hanno fatto. Mi hanno scalzato tutte le gengive alzate, trovato l'osso nudo, e nell'osso nudo mi hanno trappanato col trapano, prima la punta fina, poi quella grossa, come si fa nel ferro. Hanno inserito il perno, l'hanno avvitato con una specie di trapano elettrico e l'avvitano, poi per stringerlo usano la chiave inglese a cricchetto. Track, track, track, track, ti senti come se ti si spaccasse la mandibola, quello te lo... Non ti fa male, però senti l'impressione, io l'ho fatto, ho detto basta, ferma, cosa c'è? Ti sei sempre la mano? No, sento come dice, come si sta dilatando l'osso, capito? Mamma mia, non me ne dia a me, non me ne dia, io vado di cinese a fare la pulizia dei denti, già li sobbrabano, li sono lettina, è una cosa impressionante, quando lavoro mi sento male, mamma, no, allora non è quello che hanno fatto mia madre, a te ti hanno proprio messo i perni nell'osso, a lei invece li hanno praticamente nelle radici, li hanno appoggiato un ponte per attaccare quella dentiera, capito? No, quella è una cosa facile, quello si chiama scheletrato. No, non è quello lì. E praticamente io, praticamente una volta che metto quelli, mi avvicinano le protesi e è come se avessi gli edifici miei, capito? Non ce li devi togliere a fare, capito? Se dai fissi, non si muovono più voi. E vabbè, comunque, è una cosa un po' antipatica. Avevo due donne che mi stavano operando. Sono stato 2 ore sotto i ferri, non misurano, 2 ore. E sempre mi ha detto, come ti senti io? Di marmo, anzi, te l'ho detto in siciliano, di mammo. Ma ti tiene a via? E penso di agisso, se sei tetta, rugla, non vi pensi a chi si cose, non vi pensi. Sì, si appoggiava la moto, ma io non ci stavo manco pensando, stavo pensando al dolore che potevo ricevere da un momento all'altro. Quando si trappano gli nervi non è tanto basito. No, ma ti si facevi proprio gli appunti, non avviene. Sì. Tutti me ne hanno messo un bel. Capi come a te sono stati una quindicina, una ventina di punti che mi hanno messo. Adesso fra questo risolvo i punti e poi devo aspettare 2 o 3 mesi per ossificarsi, perché l'osso si deve amalgamare col tempo. Un bel lavoro anche costoso quello, Beh, vabbè, si abita il lusso, meglio per la mia salute che per altre cose. La mille luci, ci sono cose che si possono fare, ma tu lo sai, quelli che si muovevano? No, assolutamente no, è un bel casino, va bene, io sono 50 mesi, io mi saluto a Bronte, invece non è pronto, va bene, continuiamo, mi chiameranno avanti, Luca, mi giri due. Mi capito qua, e c'è la roba qua a mangiare. Comunque Claudio, se lo vuoi vedere, metti video impianti dentali. Non mi fate vedere a te. No, a me no, ci fate vedere come ci fate l'operazione. Mamma mia, io non lo guardo già, te lo metto io già temo la pulizia dei denti, immaginati tu ci mi sentite una cosa del genere, fa carità, quando ci mi dai io prendere in pronto, buona nella dentiera. No, non lo farei mai quell'intervento. Non riuscirei a farlo già. A fine di maglieggio è troppo. Mamma mia. Bisogna avere un po' di fegato e anche a vedere il filmato. Io me lo sono guardato prima di fare l'intervento per vedere che morto morire. Così ho fatto per il ginocchio, per le altre cose. Mi ho sempre guardato su internet gli interventi, però c'è chi più, c'è chi meno. Io vabbè che ne ho visto tutti i colori, quindi non mi fa impressione. No, già, non è cosa per me, no, assolutamente, te l'ho detto, se dovesse capitare a me una cosa del genere andrei dal meccanico dentista, prima la dentista, ma che ho detto io prima in pronti, non la mia dentiera e via, no, non mi interessa, non lo farei mai perché no, ogni tanto non ci riesco a farlo, ti ripeto, quando io vado a fare la pulizia dei denti vado in 6-7 mesi perché fumo e quindi vanno curati i denti. Ho già paura di chi c'è Drabbarino, Vivani, Pannetta, Rivetti, figura di due, se mi metterei a fare una cosa del genere, ma per carità, no, non ce la faccio, mi rimaieggio subito, immediatamente. Beh, io ti dico una cosa, l'unica cosa di quell'intervento che a me ha fatto male, ti devo dire che sono le diminuzioni dell'anestesia, per il resto lei mi ha detto aia, io ho fatto aia quando mi ha fatto, mi ha detto guarda questo è l'unico dolore che tu devi sentire, tutto il resto non lo sentirai, non ti preoccupare. E in effetti poi mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che sono stato molto bravo, che molti si agitano, si fanno, si muovono. Io sono stato, guarda, come mi diceva di me se mi mettevo, le posizioni, tutto quanto. Stavo, diciamo che ero detta, non mi scia neanche una goccia di sudore, di sangue, ma Per il resto poi avevo paura solo di una cosa, siccome ho avuto la tosse, che mi venisse il colpo di tosse, questa paranoia mi ha portato appresso sino a finire, perché avevo avuto una tosse brutta, che mi uscivano gli occhi di notte con la tosse secca. Sembrava che se dovesse uscire chissà che cosa non ci fanno, ci vedevano i dolori ai polmoni, proprio ti raschiava, una cosa allucinante. E mi hanno tenuta quasi 3 settimane questa tosse, sempre curandola con aerosol, mucolitici, eccetera, eccetera. Beh, fatto sa che mi è passata una settimana prima, nemmeno una settimana, un 4 giorni prima di farmi l'operazione, avevo paura di tossire quando mi stavano operando la zingari all'anno. Mamma mia, no, perché poi diventa ancora più dolorosa la cosa, invece così no. E comunque il botte si è fatto bene, io ti ripeto, ribadisco che non ci riuscirei a fare una cosa del genere, assolutamente. Sono troppo fifone con le cose lì, non ci riuscirei a stare fermo, come ti ho già detto lì, proprio sarei un handicappato a fare una cosa del genere, non ci riuscirei mai. Purtroppo quando va a fare così devi resistere e cercare di tirare, sennò vedo casino. Va bene, dai, mi hanno chiamato, allora vi saluto, ci sentiamo dopo se ci siete, altrimenti alle prossime. Ciao Luca, ciao Gianni e chiunque sia in ascolto. A fra poco, bye. Ciao, ci sentiamo a dopo. Avanti Luca. Ciao qua dopo. C'ho fame ancora, mamma mia. Fame, cosa hai mangiato? Ho detto un piatto grande di patate fritte. 2 teste di finocchi. Poi ho mangiato. Aspetta. 2 teste di finocchi. Adesso non mi ricordo. Non mi rifà comunque. Ma frutta ancora no. Ah no. Frutta quanti chili se le mangi? Ma dipende, posso mangiare 2 banane, anche 3, dipende da se è grande o è piccolo. Insomma mangerò la notte 2 chili di cosa, più o meno. Io me ne mangio. Vabbè, adesso che sto facendo la spremuta, l'arancia me ne sto prendendo 3, se no ne prendo 2 arancia e via, e boh. In questi giorni poi mi è diminuita la glicemia, che da 120 che c'avevo mi sceso a 69, tutto migliorato, da cosa sto mangiando poco. Infatti mia moglie ha detto, perché non facciamo una cosa? Mangiamo il secondo senza primo, poi magari la sera mangiamo il primo, alterniamo la sera il primo, la sera a pranzo mangiamo il secondo e l'insalata, così almeno dimagriamo e stiamo anche meglio. Dice io quando mangio poco sono meglio, ma tu sei un uccellino, mangi in bogo, ma io quando torno dal lavoro sono col sacco affamato. Però sono. Io da quando ho smesso, scusate, più mai niente, sempre. Allora, stamattina ho fatto colazione, che erano le 8. Verso le 11 sono uscito con questa mia amica, con una commissione, siamo andati. Verso le 11 mi mira di studiare lo stomaco, la fame. Ui. Allora, sono andati al bar, qui in via Pascoli. Mi sono mangiato una pasta e mi sono preso un caffè. Poi se la cosa ho mangiato. Ma ho mangiato molto, è la verità. Ho mangiato un carciofo, una testa di finocchio. Cosa ho mangiato? Aspetta. Poi non mi ricordo. Ah, un arancio grande. Saprano. Vabbè, se non mangi pasta asciutta o cose del genere, magari ti rimane buco nell'ozono, anche a me così. Adesso per dire sto mangiando queste brodaglie, queste cagate, vabbè sono buone, però non ti saltano mai come una fettina, un'insalata, è quello che siamo abituati a mangiare, capito? Io stavo pensando a mia sorella che c'ha sempre il flebo attaccato con questa... con questa brodaglia che gli danno, mangia solo quello. Poveraccia, tuia. Cosa vuol dire? Un casino, vabbè, già passerà, 15 giorni già passano in fretta, poi piano piano comincia a ingerire, e oggi ho già ingerito un po' di riso anche, la verità, l'ho mangiato senza masticare, che se lo masticare gli si fanno tutti i chicchi, le cose, dalle ferite, le cose, tutte le infezioni. Lo so, purtroppo è un casino già, è un casino perché abbi pazienza, ma te sapete che va tutto bene, poi del resto già, allora dimagrisci un po', dai. Sì, ma io non ho bisogno di dimagrire, sono già dimagrito, io sono guasto, meglio, se dimagrisco mi rivala il fumo, io ho già dimagrito quasi 6 kg, anzi forse di più di 6, sì. 7 kg ho dimagrito, pancia non ne ho più, sono abbastanza tranquillo, ma a me non mi piace essere magro magro perché poi sembro malato, ma sai che una volta quando ho fatto dieta, ho sceso 50 kg, ho trovato un amico a Città Mercato e aveva la bambina piccola neonata, io mi sono avvicinato, ciao piccolina, mi guardava male questo piccolo, per dire cosa cacchio vuoi? Poi si è girato, oh Gianni, tu sì, mamma mia, ma malato sì, se sei così mi dici. Vabbè, no, ma non sei grasso, perché l'altezza c'è, il fisico c'è, si apposta, vuoi, ma io già sto male lo stesso, non ho problemi. Io diciamo che se dimagrisco poi, a parte guarda, se tu mi guardi dalle cosce in giù sono magro, magro, magro, le gambe ce le ho strette strette, tutte muscolose, e quello che mi fotte a me la pancia e la parte di sopra, capito? Però adesso l'ho scesa, adesso ci sono un bel po' di chili, quindi si è assottigliata, non dico del tutto, però si è assottigliata molto. Vabbè, ma è anche l'età, Io non ho di età, sono giovane. Tanto già, confrontando me ne superi, io ne ho 39, fai 40, me ne superi 17, no, quanti ne hai? 57 tu? Se 57 lo vuoi, io ne ho 52, tu mi compri 53. Vabbè, comunque sei più grande di me, scusa, qualche anno in più di me ce l'hai sempre, no? Sì, ma non sono così vecchio da afflosciarsi tutto quanto. Io adesso se vado in palestra faccio un po' di ginnastica, poi faccio il fisico, ma non a giocare, col lavoro che faccio lui è un casino, troppo stanco torno a casa. Non a giocare di ballo, se non l'avrei fatto, sei andato in palestra come ho fatto già altre volte, ma non fa. Beh, certo. Lui sta qua a casa, non è voluto fare più nulla, pure di cucare, di mangiare, tu la tieni magari rilassati, guardare il televisore, non andare in palestra, e poi non c'è orario, capito? Perché io esco alle 7:30 e che ancora ci va in palestra. Vabbè, allora è quando avrò la possibilità già. Quando sarò in pensione. Cavaga, oia, se sei di danni, oia. E se non le paghi non ti danni mai. Vabbè, tu lavora tutti i dini. Ciao. Se ne immagini, ci ha messo da abbiamo comprato il costumino, il costume la maschera, se la busi stasera. Un attimo, sto rispondendo alla mia amica, oh che cosa? Il casino, vabbè, dove ci vuoi fare? Stavo giocando a poche, ci avevo 32 milioni, ho perso tutto, vaffanculo. Cos'è che hai perso un su? Poker, quello di Zinga. Ma sì, ci vai alla piazzetta, ma sì, il giovedì ci vai alla piazzetta. Cosa c'è? Festa del Carnevale. Non lo so, già penso di no. sì, tu dici tu dove c'è il Vuglio, ecco dove c'è il Vuglio, la metto una birretta, ma chi ne fa, magari mangiati qualcosa, è un casino. Diciamo che questo di Leo lo ritengo, cioè quei buchi, lo diviso per casa, no? Vediamo un po'. E male si mangi le frittelle che ti offrono, è buono. In allegria. Io ho due cose, ho due figli che fanno due cose, quindi adesso devo andare da Marco, perché Marco deve dare il saggio di cosa? Di karate. Di karate? C'ha l'esame, c'ha. Marco fa karate, non lo sapevo. Non lo sapevo. Fanno l'esame adesso per prendere la cintura, capito? Buon sapessi. Buon per lui. E insomma, ogni anno ne vuole una. Andava in piscina, stava andando bene in piscina, adesso non li piace più, perché quando andava c'erano tutti gli amici che facevano nuoto, quindi si divertiva per quello. Adesso gli amici non ci vanno più e non ci vanno più nemmeno lui. Se no la piscina gli avrebbe compensato il fisico. Già, se tu vai a mangiare io mi assento, dai, vado a mangiarmi un po' di frutta. Se ci sentiamo dopo, ok? Io mi devo fare il brudino, devo fare la fredda, dai, ciao. Ciao, da dopo. Vabbè, tutti morti siete, siete di virisonno. Almeno. Dice che vi facevate trovare, adesso non c'è nessuno. Siamo a volte, non chiamo, non c'è mai nessuno, manco tu. Beh, io se vedo che non c'è gente me ne vado a vedere il televisore, qualche film, qualche cosa. Claudio, voglio dire, ma niente, un buio. Mi stavo preparando un cellulare adesso. E ora faccio i soldi. 20, 2014. Salva. Lui si è salvati già. Smontato, dato un'occhiata, cambiato un pezzettino e il telefono l'ha ripreso a funzionare. I cinesi gli hanno chiesto 35 euro quando il telefono costa 40 euro. Ma il cinese sta prendendo 10, ma ne vanno già. Beh, è ragionevole il prezzo. E se no non accostano in manco, non li convengono. Oh no. Hello? Attenzione, binario 5 cambi. È bello, maniato hai. Ah, maniato hai? Hola. Pronti, si va, si camminando? Oh già, stai chiamando, scusa. Cioè, camminando, dove devo va? Già, c'è il cane fuori, ma mi ha messo da mangiare. Praticamente, come si dice, gli ho... Ma... Aspetta. Ecco un po'. Mi stavo andando a mangiare. Sono rincoglionito, alla fine. Adesso questo computer. Ora ho portato la batteria, devo rincogliere attorno. Poi metto più tempo. Ma così mi pagano. Vabbè, se non si può fare uno, cosa vai? Ma questa qua l'ha scritta, andrà appena, amica di Silvana ha scritto. L'ho scritto un messaggio su Facebook. Vediamo in quanti di voi vi vuole bene, no? Chi non mi vuole bene lo cancello. O la cancello. Sì, ti voglio bene, Luca, sei simpatico, mi fai passare su Facebook dalle giornate ridendo. Non ce l'hai come te, sei forte. Perché metto foto, mi fanno fotomontaggi di foto, guarda, ho visto la nonna, tutti i colori mi dicono, hai visto l'ultimo video che ho pubblicato? Già. Sì, quella della cucina, ho visto quell'altra. Quando avessi tutto nudo che c'è pisello piccolo. Cucca! Sì, aspetta, mi scrivi già, io ho capito. Ma dimmi tu, che cazzo fai? Come cazzo fa? Cioè un telefono di 40 euro gli fai pagare 35 euro. Ma cos'è la faccia? Se lo metto con 16 euro, 25 euro rimano loro, ragazzi, a quel telefono ci vogliono, guarda, così a occhio e croce, 2 minuti ad aprire, neanche 2 minuti. E cosa c'aveva? Una cazzata? Il flat spaccato. Quanto costa? Adesso vari prezzi, a 5 euro, 7 euro, 9 euro. L'originale costa, sì o no, dai, un 10, 12 euro. Non si vede compreso di spese. E tu dove l'hai trovato? Se non vi già? Beh, già ho trovato il telefono che ce lo sto mettendo a posto. Adesso lo riordino. Non me lo faccio nessuno. Ma devo fare un ordine. Devo ordinare il touch di quel tablet del figlio. Così a pennello lo rifarò, cioè glielo rifarò, lo devo sostituire. E tanto già sono parte di tutto, devo solo aspettare ordinare il coso, il ma, come si chiama? Touch screen. Uno si spara, non funziona più dopo. Ma mi pare che erano meglio quelle a tastiera e telefoni, boh. Già? Mi pare che erano meglio quelle a tastiera e telefoni, eh. Sì. Lo so, ma vabbè. Ma sto guardando questa zitta, ma che cazzo è? Ma sto guardando, mi manca l'amicizia. Non ho capito chi era. Magari ci vuole conoscere, cosa ne sai? Grande di età già, è secca. Mai. Se ho conosciuto questa santa qua, ma in gamba con la maestra, una persona stupenda. Troppo dolore. Vabbè, su internet. Allora. Se vai a bordare, c'è pure l'altro appuntamento, così. Ci siamo conosciuti da vedere il gruppo. E poi ci sono i contratti. E siamo tutti pari. Infatti eravamo assieme, ci mettiamo a fare una commissione. Abbiamo una confidenza, allucinante. Sono con le figlie, è separata. Le figlie abbiamo preso simpatia. Ah, le dà più. No, non è sua. Sono 8 anni. Però è simpatica già. E non vedi che si. Se ti dico una cosa non sono in parte i problemi, dici allora origini di Sosso, di dietro di Sosso, lei è nata qua a Sassari, però praticamente è andata su Sica. È schietta dicendo le cose. Oh, meno se non se ne fa problemi, ma proprio non si dice. O te le scrivi o te le dice. Ma più giovane te non le trovi. Ma cosa mi so, ma si va giù anche la vita. Tutti cattivi. Mezz'età. Ah, da che lo dici vuole giù? Lo so. Voglio restare qua. Aspetta, niente, boh, se no è c'è. Ma adesso non è che. Dico, ma c'è molta gente che ha problemi già. Soprattutto problemi economici. Tu mi devi dire a me. Faccio un esempio, tua moglie è una picca, no? Il marito dice a tua moglie di presentare un amico romano, un amico tuo, no? E questa ragazza va a richiedere se vuoi conoscere un amico tuo o magari con cui tua moglie, non so, no? Fare conoscenza, ci sta, e quell'amica di tua moglie chiede a tua moglie o a te un amico per conoscerlo. E dice anche se sta lavorando, cioè era quello uno con i soldi, scusa, era quello uno che cambi i tuoi figli, a me è successo. Magari lo chiede perché vuole una certa sicurezza nel rapporto, capito? Se uno non c'ha lavoro non gli dà la sicurezza che può avere uno che ha lavoro, nel senso che economicamente se lei non sta bene, magari se trova uno che ha lavoro la può aiutare, invece se non c'è lavoro non la può aiutare, quello è il problema. È troppo facile già, è troppo facile, no, non sono d'accordo con te, no, ma assolutamente. Cosa? Mica, se io lavoro, non è che devo campare i tuoi figli. Il discorso è un'altra volta. No. Se perché sono figli miei, mi fanno quanto, ma non sono figli miei. Sono figlio di San Raggia. Ma allora cercati una ragazza libera, non cercarti una sposata con figli, cosa vuoi che ti dica? Cercati una ragazza libera e subito chiedi, ma figli ne hai? Sposata? Sì, figli ne hai, ecco. Se dice che hai figli, no, no, allora non ti voglio, perché non devo campare i figli degli altri? Sì, no, vabbè, ma il discorso è conoscere, va bene, non c'è problema. Ma dai, che questa qua, che viene qua a chiedere se io ho un lavoro, ma se ne appunto, ma se ne ce l'ho. E vai in una casa mia, ti faccio un esempio, la tira avanti, non è un gran parte, poi ce lo vedi a casa, lo vedi a pranzo, lo porta ai bambini, però lo mangiare uno, lo mangiare in quattro, non è il problema, e non c'è nessun problema, ma io ti dico, ti a campare ai tuoi figli, ma assolutamente, non esiste, no, non sono d'accordo, finché uno magari, vabbè, ma se ne ha due. Cosa, come la penso, se uno accetta la persona che vuole bene, cose del genere, deve voler bene anche sui figli, è così la storia, poi ognuno la può pensare come vuole, io la penso così. Io ho amici che praticamente si sono sposati con una ragazza madre e il figlio di lei lo vedono come suo figlio, il figlio lo chiama papà addirittura lui. Ci vivono insieme, adesso si devono anche sposare perché devo chiedere il divorzio, e non ragazza madre, separate, ottiene il divorzio e quindi si sposano anche, si hanno fatto casa insieme e tutto. Sì, ma non ci mancherebbe. Allora, non è che, è come se io ti faccio un esempio, no? Ecco, volte, no, allora dopo gli dico, come ci manca mica a tua, ma guarda lo sta. Non esiste. Ecco. E allora sono fatte così, si informano su tutto, hanno ragione. Prima di prendere fotti duri, fanno così. Magari è stata ascoltata già da altre cose, tu non lo puoi sapere, i problemi li ha. È stata ascoltata da altre cose, quindi prima si sincera se sta capitando con una persona giusta o no. Tu, le donne la pensano sempre un appio del diavolo, sono meglio di noi certe cose. Dammi, no, può fare io no. Non gli piega. Come lo può fare io no? Cosa vuol dire? Io lo posso chiedere, ce la può chiedere, se sto, ce la può chiedere se io sto lavorando io no. Come esempio ho preso, vabbè. Oppure magari io non posso chiedere. Ti faccio un esempio, a tua moglie o a te, già le hai amiche, da quando stanno? Cioè non è una cosa bella, secondo me. Beh, se lo metti in priorità questa cosa, se è una domanda secondaria può anche andare. Certo, se lo metti in priorità già un po' ti dà da pensare. Ma se lo metti come domanda secondaria che si informa su di te che tipo è per dire simpatico, è socievole, è sensibile, dopo ti dice ma sta lavorando, ecco, allora è un'altra cosa. Se lo metti come priorità, come stai dicendo tu, già c'ha l'interesse. Ah, visto che torni a me. Sì, ma tu questa non me l'avevi detto, che l'aveva messa in priorità il fatto che stavi di lavorare. Io la vedo così. Cioè, se la metti in priorità il fatto che tu lavori o no, già è una cosa che ti fa pensare. Se è una cosa, diciamo, che chiede secondariamente, dopo che chiede che tipo sei, eccetera, eccetera, si informa su di te e poi dice, ma lavoro ne ha. Ecco, una cosa già secondaria senza secondi fini. Però me l'ha detto che io ho questi amici, no? Detto, ma guarda che con tu ce l'hai? Scusa, però io ero, diciamo, solo. Ma è carina questa ragazza, quindi guarda, a parte che mi è un po' strana, ma comunque, vabbè, non è quello di importanza. Tutti uno dice, vabbè, lo fa cagare. E ha chiesto se stavo lavorando. Beh, che prima ha chiesto di conoscermi, no? E ha chiesto dopo se stavo lavorando. Perciò sì, già lì per sé c'è da pensare, no? Vabbè. Magari non è come la pensi tu, magari al tuo amico è stato detto in una maniera e è stato riportato in un'altra, va, bisogna vedere anche come la studia. Però di solito le donne fanno così, io lo so perché ho avuto amiche che si informa, non mi piace quel tipo, ma come è fidanzato, ma questo, ma l'altro, ti chiedono un bel studio, no? E ti chiedono anche queste cose qua, se praticamente sta lavorando, se non sta lavorando, se è simpatico, se è socievole, ma che tipo è, stravagante, ecco, ti chiedono queste cose qua, vogliono sapere queste cose, magari le piace, però poi se tu gli dici no, lascia stare, meglio non ti presento nemmeno che non si deve arrivare a bere. Però dico, vabbè, molla tutto, allora lascia perdere. C'era un mio collega che piaceva un'amica mia, un giorno in discoteca, questa amica mia l'ha visto, lui praticamente mi ha salutato, e questa amica mia ha detto, ah, carino il tuo collega, non me lo presenti, io ti carità, e se vuoi conoscere te lo faccio conoscere, però c'è un carattere così di merda, che se lo conosci ti ribassa la gana. Se vuoi te lo presento, no, no, se mi stai dicendo così non me lo fai manco conoscere. Sì, vabbè, ma comunque, non al discorso di prima, cioè, vai a chiedere se sta lavorando, e poi, come ci si conosce, e poi, sta lavorando, no, non è che mi devi campare tu. Non sono lì io, cioè come una persona che mi campi lì, ma assolutamente. Però piano, una persona ci conosco, poi. Ma lei è dentro nessuna, è quella già, fidati. Grattarselo e farsi campare, capito? E boh, non lo so, no. Non lo so, lo so. Io già ce ne sono comunque. L'ho raccontato stamattina, l'altra mattina ero dal dottore. Io sono due signore che parlavano, stavano dicendo di questa tipa, e tu sai cosa mi è successo? Praticamente mi si è avvicinata a questa tipa in fusola, l'hanno tutta descritta, ben vestita, magrolina, con i capelli chiari, tutta pirata. È venuta e mi ha detto, buongiorno signora. Le voglio dire una cosa, mio marito mi tratta male, ho una figlia di 15 anni, ho avuto un tumore l'anno scorso, non ho lavoro, insomma questa qui dice che ne ha avuto pietà, aveva 150 euro per fare la spesa, ha preso le 100 euro e le ha date. E qua si è detto, ma tu sei matta, ma lo sai chi è quella lì? È una che si prende la birra così, se resta sempre con i ragazzi in giro, cosa, si mangiano il rubanino, si fanno i soldi così, vivono gli espedienti, si... E lui, avevo l'appuntamento con Giulio in via Pascoli, lì al bar che c'è nell'angolo dove c'è Tori, lì. E ho detto, adesso parcheggio la macchina lì alla Combeck, perché non c'era parcheggio. Metto la macchina alla Combeck e quando sono andato a ritirarmi la macchina mi si avvicina a questa tipa. Gli ho fatto la fotografia subito, di Saedda, perché mi sono subito ricordato di quello che aveva detto quella signora. C'aveva il fuso colorati, era ben vestita. La tipa non è manco brutta, ha i capelli un po' chiari. E si avvicina, mi fa buongiorno, buongiorno, mi dica, posso chiederle una cortesia? Mi dica se posso, gliela faccio volentieri. Dice, sono una signora di 50 anni e alla mia età mi creda, bugie non se ne dicono. Ho avuto l'anno scorso un tumore, ho una figlia di 15 anni, mio marito che mi trattava male, me ne sono andata di casa, però dice non c'ho soldi, non so come fare a campare. Cioè cosa gli ho detto io? Questa storia la conosco già, non ci credo, ci si è avviata Gurrende. Capelli corti, confermi? Cappa. Non la conosci, si chiama Daniela. Daniela si chiama. Guarda che sta, zona Sacro Cuore, lì, via Pascoli, quella zona lì. Ma ci ha dato 100 euro. E allora? Vuoi dire via Giovanni, via Dato? Via via via, Luca. Sai cosa ha detto? Se lo sa mio marito che lavora tutto il giorno sotto il sole, probabilmente il marito è operaio, sarà muratore o cosa, che lavora sotto il sole per guadagnarli, mi staccherebbe la testa. Lui ha detto, tu sei scema, ma al massimo che li puoi dare a questa gente sono 5 euro, ma quando mi dai 100 euro? Dice, mi ha fatto male al cuore, quando l'ho sentita così mi ha fatto una pena, e loro dicono queste cose proprio per colpirti, capito, farli pena, e molta gente si impietosisce e dirà assurdi, ma questa qua casa 100 euro addirittura gli ha dato. Ma fate cioè 100 euro non è che rimane dall'aria, ma guarda, se 100 euro bisogna farci due giornate e spaccare anche la schiena. Vabbè, comunque anche a me ha fermato, Marca di Via Sosso, fanno anche dei studi. No, scusa, io ho una figlia di 15 anni, ho detto, ma non me ne ha parlato, e si dicono soldi, ho detto, guarda, io ne ho meno di te, ho questo da pagarmi, ho questo da pagarmi, allora mi rilevo, appena se ne è andata, ma è stato chiamabile, fa carità, diciamo, non è facile. Dici? Beh, tu dico. Ma a me è sembrata una donna, diciamo, normale, vestita normalmente, non è stracciata o cose del genere, sporca, ecco. Normale in questo caso, una donna comune, ecco. Non dico vestita in tailleur, però non era mal vestita, ecco. Si è venuta a raccontarmi questa storia, dopo che l'avevo già sentita, capito? L'avevo sentita la mattina prima, capito? Meno male, sembra quasi che mi abbia avvisato. Vabbè. Comunque. Si vede che ne ha bisogno, dopo che ne ha bisogno, mi fa una spesa. Diciamo che la signora è stata intelligente, non male male male, diceva di serve da mangiare, solo io te ne posso dare, se vuoi ti ho comunque da mangiare, non so, per esempio un litro di latte, un pacco di uovo, un pacco di zucchero, un pacco di caffè, due pacchi di pasta, un coso di burro, e come se non si riusciva, 20, 30, no 100 euro, cavolo, sì, ma sta qua fanno così, ogni giorno, gli capita ogni giorno, ha fatto bingo. A me Luca mi è capitato di vedere una signora che io prima conoscevo bene perché era la nostra cliente, e un giorno l'ho vista davanti all'acqua piangendo, e quella mi ha fatto pena davvero, ho detto, cosa c'è signora, mi dica, ah, il giorno mio che figlia giù vatto, non va giù manco di namba più da lei, ma va Giuseppe e non va giù di namba più da lei, ma sai cosa ho fatto? Tutti i soldi che avevo dentro il portafoglio, compresi gli spicci, li ho dati, perché sapevo che persona era, e sapevo anche la situazione, perché l'avevo sentita già l'altra gente, che il marito se ne era andato da casa, era stata quella vicina minore, ecco. Non avevo tanto, dico la verità, il giorno avrò avuto 20 euro in soldi e qualche spicciolo, non ci avevo altro perché di solito io appresso quando vado a lavorare non me ne avevo così, ci avevo la carta, se devo comprare qualche cosa la pago con la carta. Beh, tutto quello che c'avevo gliel'ho dato. E mi sono parlato pure di raghi quando mi era girato, ma ho detto già, no, non fa così, non mi dilaghi, ne hai bisogno pure tu di dinare, tu travagli, ma non si preoccupi, si prenda l'acqua, si prenda quello che gli serve, quello che gli esce, di più non so. Sì, ma si fa così va bene, cioè non è. Però il problema è questa qua si gli ha dato 100 euro, ma questa tipa gli ha dato 100 euro, la giovane era. No, non giovane, avrà avuto una sessantina d'anni. Ma diciamo già guarda, mi insegna. Ma se tu la vuoi trovare, se dove vai? Se ti capita, no, ma riesci. In mia macchina ci sta un circolo. L'avevo mandata via, perché era la figlia che sta metteva a casini, capito? È carina la figlia, si vede, se la vedi, ma è un bel carina. Vabbè, comunque sia. Non metteva casini, faceva bisticcio alle persone lì al circolo, siccome lì purtroppo non hanno, per quanto so io, un altro lavoro, e vanno avanti con questo circolo. Adesso se non mi vorrei sbagliare, forse l'hanno mandata via, via di questi mesi casini, quasi risse, ecco. Non lo so, se vai lì, ne manchino quasi, dove c'è la sera, cosa di Natalino? C'è una pasticceria lì, c'è un circolo, a tu qui lì. Sta sempre bene, ma non è la padrona del circolo lì? No, sta lì buttata. È la figliola. Ma ce l'hai lì? padre, non è a me. A quanto sei o no? Così, ragazza madre. Beh, il tipo che stava con lì, però che è successo, in via, alla sede di via Pascoli, entro, stava occupando roba, non mi ricordo, cosa mia madre, vabbè. C'era un giubbotto, no, e le tasche vicino al petto lì. Ci ho messo le 50 euro nel telefonino, perché mi stava comodo, no? Vabbè, giro, poi mi sono dimenticato di comprare non mi ricordo che cosa, chiamo mamma, quella scena mia, beh, ma qua ha avuto un culo il giorno, manco io. Per il telefonino lo tiro fuori, faccio il numero, ma come mi sa cosa. Mi sono dimenticato qualcosa, ripeto quello che devo comprare. Mi ha ripetuto tutte le cose, no? Infatti mi sa che è l'olio, che mi ero dimenticato. Cioè non mi ricordavo, adesso non mi ricordo se era il caffè, vabbè. Ma se passa molto ragazzo e si ammazza. Cavolo. E io lì prima mi sono saputo che avevo 50 euro, tanto giù morto, insieme al telefonino. Certo, ma se la contro la terra. Dammi i soldi, quelli sono miei. Oh, ma sono tenuti d'accordo. È un tipo che stava con lei prima. Un tipo capello che beveva sempre birra. E manco male che tira giù l'altro, io è successo anche a me, ma li ho persi. Vabbè, non erano 50, erano 5 euro, me li ho messi in tasca, dovevo darli, era un favore che stavo facendo, me l'ha dati mia sorella da dare a mia moglie perché gli ha venduto dei prodotti. Vado a casa, vanno a migliaia di euro, non verranno i biglietti, guidate già per la macchina, me li sono farati. E vabbè 5 euro, tanto quanto, ma cavolo, 50 euro però non è una roba mia. Niente, vabbè, comunque, siamo eravamo tornati, non so cosa sarebbe successo il giorno. Facciamo solo quelli, anzi solo quelli mia madre. Comunque Luigi ha capito chi è, no? Quindi stanno in quella zona lì. Mi hanno detto, quella signora ha detto che Bassica è nella zona del Sacro Cuore, sta anche fuori dalla chiesa, chiedendo roba. Va lì fuori dalla chiesa Sacro Cuore, poi va vicino alla Cobbett, quella zona lì. Mi ha detto, vabbè, grazie, lui se n'è andata, va correndo il barone, mi ha pensato, ma mi dice che è poliziotto, perché lui non mi disse che è. E vabbè, comunque, non viene niente strano in giro, poi. Una volta, lo stesso, c'ero con la mia amica, andavamo a fare le asperme, a bagnare, poi vai qua, vai là, vabbè. Siamo andati giù, su a coso, a Lido, qui c'era Roberto. Parcheggiamo, ci sta dicendo un altro tipo, scusate, noi ci avete 5 euro, e beh, 1 euro, 5 euro, guarda, questo qua, e prendo un panino. A poco, passerei a raso direttamente in quarta. Che cosa strana, allucinante. E se non vedi questa città, adesso ne hanno fatto vedere uno. Praticamente due tipi, uno travestito da postino, sono laggiù, signora c'è da firmare, può scendere, sì sto scendendo subito, l'altro sale dalle scale, quando vede la signora che sta chiudendo la porta, via, l'aiuto io signora, chiude la fa finta di chiudere la porta, poi dai gira indietro e la apre. E la signora scende giù di là, le chiavi, grazie signora, piacere di averla conosciuta, e se ne va. Poi come la signora scende le scale, lui va, apre la porta di rubato. Poi quella lì va, firma, il postino intanto la trattiene, l'altro con i soldi li passa dietro, manco si inabita, e quando sale su trova tutta la casa svaligiata. Vabbè, comunque. C'è un bel gente disonesta in giro, cioè. Un bel. Vabbè, comunque. Guarda, io non so il giorno, se ti devo lì. Ciao, quei soldi, quindi sì. E lui ti poteva dire, dove c'è scritto che sono i tuoi? Ma non c'è scritto nulla, io li ho trovati per i miei. Capito, se trovi quello prepotente, manco male che ti ha dato subito, o si è abbizzato che sa fare di a te e ha detto che fa ragione, cosa dico, si è abbizzato e basta. Yeah, ma cazzo, mi sono parlato in terra, mi sono parlato in terra, in chili, poi c'erano le email, tu sei chi sono i miei. Beh, io per dire, una volta sono andato al bar, alla cavalcata, sono andato al bar, Marco mi ha detto che voleva un tramezzino, ho detto Marco, tutta questa gente, vado in quel bar qui a Roma, mi bevo una cosa per il tramezzino a lui, mi giro, grazie, vengo 20 euro in terra. C'era un bel di gente, di carriera, di canonina, ne ci posso rubire, e poi mi sono che c'era da giubilare. Vabbè già, ma comunque mi sono accorto di aver perso qualcosa, ma lì per lì ci ho pensato, cazzo, di 50 euro. Avessi me la turrati, cazzo già, si è mandato vicino a me, mi ha affiancato, si è ammazzato e se ne era accorti. Dammi, era veloce, ma veloce, veloce, ma avessi me andati, Già, l'avevo cutto, non me la futti, avevo mai cutto. Beh, a un certo punto, secondo Cacciappi, io poi ci sono sempre quei tossici. L'altra volta sono andata alla Cobbe che questa madre ha lasciato il bambino dentro la macchina, giù nei parcheggi, il bambino piccolo, avrà avuto 3 anni. Ha detto, mi aspetta qui che sta arrivando subito, e mi ha detto, grazie al parcheggiatore. Ha detto, adesso tra me, ha detto, vedo un capisci abilitato, lasciare la sua in macchina. E un momento il bambino aprire lo sportello, ha ucciso, magari basta la macchina, ragazzi, che dice, vabbè. E non si avvicina uno di quei tossici che stanno lì. E ha cominciato a dire cosa, c'era la guardia giurata, l'ho chiamato, ho detto scusa, devo intervenire subito perché quel tossico è andato lì in quella macchina dove c'è un bambino da solo che la madre l'ha lasciato solo e sta furruggendo dentro la macchina. È andata la guardia giurata, gli ho fatto frittare nulla, mi sono andato, non ho visto manco cosa è successo perché è scesa la guardia giurata giù. Scusa già, ma qua l'ha scritto, aspetta. Allora tu dimmi pure, brutto feo, l'umignò. E mi ha risposto strano, questa mia amica che ha vissuto tanti anni era alghero, era un algherese. Le ha scritto, no, è feo, l'umignò. Ammazza boh. E poi gli ha risposto, e tu chi sei? Io a stic, a scalza, se no, è scompresso. E mi ha risposto, io già ho compreso, ma non toccare, il mio mi smosso da... Ma cosa ha detto quante carte? Non penso sia partito, sì. No, Cla, aspetta, sì, c'è... Allora, la mia amica ha scritto. La mia amica ha scritto. La mia amica Sandra, fuori di capo, a Cla, è allucinante. Guarda, è una donna, pure anormale. Comunque, cosa mi ha detto? Cosa mi ha detto, Cla? Se tu l'hai scritto il mignon, lo sai se lo dico il mignon? Il mio ragazzo. No, lei non me l'ha scritto, perché io ho scritto che mi, vediamo i quanti di voi, io messo un coso, no? I quanti di voi mi vuole bene. E mi metta mi piace. E poi l'ho scritto, dopo un po' ho scritto, io mi metto mi piace, non me lo cancello. O la cancello. E lui me l'ha scritto, l'umignò. Aspetta, lui me l'ha scritto. Allora togli pure il brutto vero l'umignò. Ah, e poi lì io l'argare non lo so scrivere. Allora gli ha risposto Sandra, questa mia amica, che è l'ex marito algherese, e lei ha vissuto 12 anni all'Alghero. Praticamente gli ha scritto, lascia fuori il mio ragazzo. Capito? Si è difeso, no? Ya mol dos damas i tu no tal pot il cazzo mi sono occupato nulla il miti de di una lucchetta e niente e io ho capito le smolte e Tamara e ho lasciato da Luca che il mio ragazzo l'ho fatto finta praticamente ma questa è la moglie le smolte de Tamara le smolte Tamara le smolte Tamara vuol dire mignolo, se si scrive mignolo, quello vuol dire ragazzo, ciao, vuol dire Ruth. Ciao Claude. Ma è una simpatia unica. Io ne ho conosciuto questa qua, è veramente, la riconosci, se ti viene una cosa, te la dici, non si fa nessun problema, la prendi e te la scrivere. Ma quella è più bella. Non viene nei contatti, là, non so se mi hai, se no avresti letto tutto. Quanto cortissimo, innamorato di quella là. Allora, adesso non si è scritto la gregge. Grazie. gli algheriti sono già sono non tutti ma una parte sono un bel permalosi. Allora lo fa così, no, per vedere un po' come se faccio un esempio, no? Io pubblico una cosa, vai, tu scrivi una cosa, vai, adesso, perché sono scherzi, poi la scrivi in un modo che magari loro la interpretano male, poi la fa, beh, ti attacca, ma lo fa così, ma non me lo per offenderti così e faccio due risate, guarda, è pazza, è fuori di gatto. Sorry. faccia la guida. Bolino, ah, è un amico. Ah, ma non è una cosa che mi ha fottuto già con lei. Ma lo conosco per qualcosa. No, ma lo sto dicendo a lui. C'è anche il baracchino, sta più entrando. Ma dove c'è? C'è il Facebook. Aspetta, aspetta, che non ho il telefono. Vabbè, io sono qua. Sempre se che ne risse, che si rucca, E la vita mia c'è, a favore voi. E ma bisogna parlare con più filosofia. Se uno entra su internet deve, secondo me deve prenderla, per farsi scivolare tutto addosso, se no si attacca ogni cosa o diventa più rilassamento. No, non c'entra mai, io non mi interessa. Cancellato tutto. Ce l'ho, ma no, non mi interessa. Proprio entro così ogni tanto, adesso c'è qualche messaggio, qualcosa, ma sempre. Sempre fuori servizio, non mi ha fatto nulla, non è roba per me quelle cose. Voglio dirtene una, a me il computer mi ha proprio, me ne farà di brutto da ricattare, ma non per niente, perché ogni tanto c'è un virus, ogni tanto bisogna formattarlo e fare aggiornamenti, e quello che mi rompono le scatole, me le cose, mi capito? Per usarlo no, ma quando succedono queste cose, mi girano belle palle. Devo stare sempre appresso al computer, molte volte lo uso per la macchina fotografica perché devo scaricare le foto eccetera eccetera, ma se no non le sto accendendo manco io più. No, mi interessa proprio. No, adesso lì in internet guardo due stronzate, due fesserie e poi io non spengo subito. Quello che c'ho sempre acceso con la mattina e la sera è il cluster. Ho due computer base, due monitor, anche tre ne ho un monitor. Accendo il cluster, sto sempre controllando il cluster, ma l'internet non mi ha fatto niente. Anche se quello funziona adesso su internet, però io ho quattro uscite dalla access point e quindi due sono collegati, una internet normale, l'altra internet sul palco, praticamente per la radio, capito? Sempre su quello lì, guardando cosa passa nel mondo. E boh, paurella, ma internet, se vuoi pubblicare, questo è il programma che ti fa vedere solo i collegamenti, eccetera, eccetera, che lo conosco. E diciamo che a me mi interessa più per le cose che interessano a me, diciamo, le radio, tutte queste cose qui, se devo cercare una parola magari che sento e che magari non so significato, vado a cercarla, ma non passasse ben ignorante, tutte queste cose qua, capito? Allora, più informativo di che altro, le cose informative guardo i video, anche le operazioni, tu mi dici sei macabro, no, almeno so che di che morte devo morire, tanto è vero che quando a me mi hanno operato al ginocchio, mi hanno fatto l'iniezione lombare, praticamente nella schiena a livello del lombo, lombare, tra un anello e l'altro della spina dorsale, immaginati, l'iniezione lì, e mi ha paralizzato dal bacino sino ai piedi. E quando mi stavano operando, io stavo guardando, c'era un monitor in sala operatoria, io stavo guardando al monitor tutto quello che mi facevano, dove entrava la sonda, eccetera, eccetera. A un certo punto mi hanno coperto il monitor, mi hanno messo un lenzuolo davanti e lì mi sono sentito male. Perché? Perché ho immaginato che la cosa che andavo a vedere, quindi, che faceva male, poi ci sono dei colpi di martello, tipo un picco martello, diciamo un punzone, un martello. E quando poi l'ho chiesto, dopo ho fatto l'operazione, l'ho chiesto al professore che mi ha operato, mi ha detto che praticamente bucano l'osso per far fuoriuscire la pestatura che c'è dentro l'osso, capito? C'è tipo sangue pesto. Come mi hanno fatto una puntura per la lombare, anch'io c'è un timone dove sono vertebrale funzionale. adesso mi basso, però adesso non ne ho più di dolore, prima soffrivo moltissimo. Beh, se efficace la cura non dovrebbe più farsi, magari non è nemmeno cos'ora, magari è fiammato e chiedeva quel problema lì. E io, mio collega, che prima lavorava da noi, adesso lavora in un altro posto, faceva l'autista, e a furia di scaricare le cose dice che aveva sempre questo dolore alla schiena, non gli passava più. Alla fine si è fatto fare un fungo dell'ortopedico e dicendo che non poteva più sopperire a quel tipo di lavoro, di cambiare di mansione, perché lo sai cosa gli stanno facendo fare adesso? Lo stanno facendo pulire. Stanno facendo fare più mansioni pesanti. Sì, l'hanno fatto, l'hanno degradato tutto, l'hanno stanno facendo pulire in terra, scopare se c'è il magazzino, ci sono qua. Se non ce la fa fare altro, cosa gli vuoi fare? Noi abbiamo uno così, che tutte le volte si mette a tagliare erba e non se ne invece di fare tre di cucato, e cosa gli vuoi fare? C'è un problema alla schiena e quindi cerchiamo di farle fare le cose più meno pesanti, dai. Però loro sicuramente hanno fatto come forma di vendetta a fare questa cosa, secondo me, perché lì mansioni ce ne sono tante, c'è la mansione del carico e scarico, ci sono tante mansioni, oltre a quella dell'autista, ci sono quella del rifornimento dei mezzi, della manutenzione, responsabilità di tutti i mezzi, eccetera, eccetera, e a voi già se volevano fare le mansioni importate le facevano fare. Ma io ho un ricco muro in mano, ho pure una lettera di tutti gli anni età, di tutti gli anni età. E cosa dice? Lo fa volentieri oppure si rifiuta come la presa? Lei mi ha detto a me, non lavora più da noi, lavora in un altro posto, premetto. Lui mi ha detto che l'interessante è guadagnarsi lo stipendio, dopo quello che gli fanno fare lui fa, non ha problemi. L'interessante è che non gli nuocia alla spina dorsale come stava già facendo, perché prima scaricava roll di roba, pesanti e cose, non fa, dai. Se uno soffre la schiena non fa, dice che cazzo non si fa muovere, si bloccava. Buttami già, butto, io quando butto la torsione alla spalla e sono rientrato, non riuscivo manco a prendere le cartelle, le cose, farmi sistemarmi ufficio a Santa Maria, non riuscivo a fare niente. Poi dopo la fisioterapia ho iniziato pian pianino a far meglio. Ma inizialmente quando c'hai questi problemi così non è facile, capito? Ah, l'ho provato, so cosa vuol dire. Una mattina sono arrivato, mi serviva una pedala di latte, sono sceso giù col traspalma. Come sono arrivato? Mi ho messo il camice, ho preso il traspalma, sono sceso giù in magazzino per prendere il latte. Come stavo pompando per fare alzare la pedana, mi si è bloccato un braccio, e tutto quanto la parte del braccio, tutto il fianco, e non riuscivo più a muoverlo, avevo questo dolore atroce, non riuscivo manco a respirare, cazzo, non dolore, non sapevo più cosa avevo, era là sopra il magazzino, sopra c'era la gente, però io l'ho sceso giù, quindi non ve la nessuno. E niente, mi sono un po' adagiato, perché guarda, stavo per svenire dal dolore, ma non riuscivo a respirare, un dolore. Poi sono restato mesi e mesi così, ho fatto iniezioni, ho fatto voltare nei muscoli, e alla fine poi mi sono dovuto fermare, perché il dottore mi ha detto devi avere il riposo, perché se tu continui a fare sforzi non ti passerà mai. No. Non ti passa assolutamente, è un casino. Come sono queste cose, queste patologie da nuda, perché se tu la curi come gli antifiati. subito, capito? Si riprende subito. Adesso quando ultimamente mi si è girato proprio il posto, entrando a notte in garage, mi ha sempre chiamato il tendere. Tutte le volte che faccio qualche sforzo, anche a prendere qualcosa, così al lavoro, mi si gonfia il polso. Insomma, però il medico glielo ho detto, mi ha detto non c'è niente da fare. Ma tendinite, ti va bene, mi ha detto. Però tieni, non puoi farci niente. Però non posso mettere la faccia, no, lì c'è peggio. Lo devi lasciare così, cerca di non forzarlo. Quando mi do, ci voglio dire che ho un tipo buzzo, ne ho avuto che fare qualche cosa, ma mi metto a lavarmi la macchina. Asciugarla, fare, tanto mi si gonfia il polso. Ma come l'hai fatto il coso? Sarei sul cavallo sulla moto tirando dal manubrio? No, ovviamente la stavo tirando così. Mi stava sfuggendo e mi stava cadendo. Allora, per tirare invece che ho tirato, ho strappato un pochino il polso, ho fatto forza con la mano, capito? Se salica a me una volta, sai. Sale nella piazza Porrino e visto che c'è quella salita, è uscita la macchina di colpo, io ero con Marco e mi sono fermato, come stavo per partire, mi è uscita questa macchina di colpo e ho rifrenato. Come ho rifrenato la moto, mi ha girato il manubrio e per tenere l'equilibrio, per non far cadere a Marco con la moto, se ho fatto uno strappo qua, secondo me è sovraumano quello che ho fatto. Questa moto pesa 200 kg, lo sai, una cosa sovraumana, ho fatto uno sforzo, cazzo qua, ma proprio mi sono meravigliato anch'io che ce l'ho fatta, era quasi caduta intera la moto, cazzo, ti metto tutta la forza per non far male al bambino e l'ho fatto drizzare. Ma ho fatto uno strappo alla spalla e al braccio che non riuscivo più a muovermi. Ma ti dico che è pesante, ti sto dicendo che una volta ho messo un'anguria sopra, no? Mi stavo accadendo, voleva cadermi l'anguria, voleva cadere l'anguria, io scemo pensando all'anguria, non ho pensato che potesse cadere la moto. Cazzo, non mi dica che la moto in alto. Mi è caduta sopra il piede, la pedana sopra il piede, meno male c'era un signore, mi ha aiutato a tirarla su la moto, si sono messi in due a tirarla su e mi hanno liberato, se invece col piede sotto la pedana. È proprio bisogno, non era caduto l'ho mette così, giù vendi, giocando mi ha caduto l'ho mette sopra, ragazzi, di mai mi chiccia, mi ha dovuto la gamba lo stesso. Ma noi ce la franco loro, subito la gran fata, se non mi italiano. E la moto è, anche la fermo è pericolosa. Ma io proprio così, la sono piano al cavalletto, sai che c'è quel gancio, loro mi metti il piede e ti. Mi ha messo bene il piede, mi è scivolato e mi stava cadendo, c'era il muro però, si graffiava la moto. Allora ho tirato, cazzo, un dolore al polso. Subito ho messo sotto l'acqua fredda in garage, ma non dolore, mi ho messo la pomata, tutto, niente da fare, ghiaccio, ho fatto 2-3 giorni così e poi mi è passato. Adesso ogni volta che faccio dei movimenti strani mi si muffia il polso, è una rottura di palle. Sono andato a un medico l'altro giorno, l'ho letto e mi ha detto che me lo devo tenere. Vabbè. Non dire tanto, non mi più mi manco, cosa faccio? Ma se cade? Cagate, dov'è che anche? E non è mai successo, non mi era mai successo a me, per due volte adesso mi è successo di colpo, che tipo viene una specie di scossa nella mano quando fa qualche sforzo, una specie di scossa e poi si siede tutta la mano, che è come se ti prendesse la scossa, ma un dolore che è allucinante. Ma è successo che adesso come faccio qualche sforzo con la mano o è il tunnel carpale? Sicuramente, è buono, si migliora, la mia dove è, si mangia i gucciucci. Sì, ho finito 5 minuti fa. Ti fa poco, mi giro. Poi mi sto mangiando un pezzo di cioccolato con le nocciole. Mi fa aspetta, non ti voglio un guscio. Come vuoi bene, tu? Non ci vuole nocciole. Non ho mangiato, essere usciti. E quindi non lo volevo mangiare. Poi siamo tutti intasati, mamma mia, c'è cioè, la freddura allucinante. Per carità. Vabbè. Domani previsioni, non sa niente nessuno, piove, non piove, Massimiliano. Come è il campione lì da te, a piove domani? Allora io non lo so, non ho guardato la verità. Poi ci ha messo acqua, per esempio, non ne ha fatto niente, ma neanche una goccia. Eppure stamattina io sono uscito a casa, ore 6, e stava piovendo, stava piovigginando. Senti, ma stasera non vedo abbassare la leva, però. Senti, a provare non ne ha fatto manco una goccia. Ma è grandine. Sassari, io uscita la mia figlia alle 4 e mezza dal lavoro, cacca di bari 4, non mi bari ai 4 e mezzo, 4 manco 4 ai 4 e mezzo, mi ha barriato lei, l'ha fatto io anche. Ma ti sto dicendo che io ero su a provare, neanche una goccia. Anche di da te Gianni, ha piovuto lì. Ha anche grandinato forte, addirittura se ti voleva la serrata che avevo chiuso perché avevo intenzione di riposarmi, invece poi non ce l'ho fatta. Ha grandinato forte, sentivo proprio sbattere la grande, come ti brilli. Senti Gianni, ci vediamo, è anche qua. Ti metto forte, io ho sbagliato nel divano e ha piovuto forte. Almeno per un quarto d'ora, 20 minuti, piove forte, grande, vento, capito? Intanto c'avevo la finestra aperta qua, dove c'era il radio e l'ho chiusa. L'ho chiusa perché altrimenti entrava l'acqua, capito? Quindi già ha piovuto. E magari li approvano, preso le tiche. Beh, per lui, posso dire, si vedeva un nuvolone nero-nero verso Sassari, però la plaga non ne ha fatto una goccia. Nulla, nulla. Ma la televisione si sente, no? No, andiamo bene, si c'è la corsi. La modulazione, non a toccare quella regolazione lì, che va benissimo. Lasciamo questa, va bene. Com'è il segnale già da te? Guarda, dov'è? 1, 2, 3, 4, 5. Già sei buono il segnale, 9.30. Andando io, un 30 watt, boh, c'è quello segna 100 mW. Si deve fare, anche di più la puoi salire, se vuoi che abbassi leggermente il picco, anche a 40 la puoi mettere il portante. Io se ho 80 c'ero 40 watt di portante, 80, 90 modulati, e così è quella, non è che sia differente, anche 40 watt la puoi mettere, e così diminuisce anche un po' il picco di modulazione. Ci arrivo a 30, no già, come ce l'ho tenendo il dove, prova, guarda, vedere, non ci arrivo, no? Sì che ci arrivi, c'è lo stesso segnale Massimiliano, dice che c'è su, mi sono però ce l'ho tenendo il dove, sto prendendo di fianco, vedi, già va bene, sono le chiacchie, stantenna favolosa, dicevo tutti tutto, messa così a Nordovest, dicevo tutto perché ero orientato tra la porottola del Sassari, capito? Qui con il riflettore tendo dietro la parte verso tre aghe, quello del mito, già andavo, avuto che andavo, stazionario zero, manco si muove il cosmo, trovi la radio. Anche tutta la porottola si prende anche a me, capito? E quello è il coso. Io sono verso Porto Torres, quindi mi prendi bene. Sì, fate Nord-Ovest, è tra Sassari e la punta verso i punti, ma lascio così perché anche tu con la testa rende in macchina il segnale tuo è sempre 9, 9 e 10. Te rendo conto che insomma, più o meno, non scoperto quella posizione lì perché la tenevo a nord e mi attenuava un bel segnale dietro. Invece tenendola così riesco a sentirmi tutti benissimo. Benissimo, benissimo. E anche tu mi cavo bene, sei 9 e 20. Già pompa quella vera, cazzo. qui, ma c'è il protezione, ma non la wifi così, il picco, non la wifi così. Sì, a capo un picco, 3 secondi, sì che va bene, a voglia va bene, no, mi stavo provando un po' internet, stavo provando a leggere qualcosa a capo, dopo che arrivano quei libri, stavo ripassando un po' di qualcosina, là. Ma che va a fare? Buttati dentro, vediamo se la fai a maggio, se no a ottobre. No, se ti dai una bella ripassata, una bella, già l'orientamento ce l'hai, con un orientamento sui componenti, sulla componentistica, poi già viene più facile quando uno sa quelle minime cose, conosce un po' in generale la componentistica elettronica, ma se si studia normative, poi altro non c'è più a fare. Domanda risposta, quindi potresti anche avere il passo, non c'è un bel picco di modulazione, ma signor, bello 9:20, 23, 25, anche Gianni finalmente ti ha scorso, come ti ha scorso Gelli, ha deciso quindi di dare mattana forte a questo detenuto. Eia, nuova mattana. Così ci provo, là. No, ma a maggio non ce la faccio, sicuramente a ottobre ci provo, insomma un pochino, là. Cosa ne esce fuori? Tutti in maniera, ho detto, cioè con due requisiti, a matita, quindi va di che requisiti per la macchina, ma adesso cosa, studio la casa. Ti fa la domanda, ti risponde e poi va a vedere se è giusto. Se non è giusto, guardi perché hai sbagliato. E così via. Quindi sempre andando a migliorare, perché altrimenti è casino. Capito? E fare il meno errore possibile. Poi, io sono qua. Non ci sono problemi. Proprio Ruth, ha deciso dalla mattina. Ho deciso di metterlo e basta, perché la mia vista si stava cercando senza vedere gli applichi di lui. Ma poi che senso ha? C'è un perché non deve arrivare delle cose tue, via vai. E battimi la Recci, tu fai come ti ho fatto io a uno, e i primi anni che ero qua, ce l'avevo sopra. Il primo anno forse che ero qua, perché ho abitato a non ho piano, non ho proprio le palle a nessuno. Anche quando ero via Pascoli, no, è come che non c'era il ghiotto da rifugio, il pantofo, eccetera. Il ghiotto camminava gente in trucco, di sopra, rumori a tutto andare, con le sedie, bimbumba. A di un quando oggi sono che ci sono sempre i filtrini che metto sotto le varie, eccetera. Non ci si vado, la mi dai. Ho fatto il pacco di serie che c'ha, e noi si entra una busta, gli ero imbucati, e per imbucati c'è scritto, ogni tanto usali. Ma non mi vedi a baciare un bravo, buongiorno, e gli hai in culo. Ma no, ma perché tu dai fastidio parlando tu o te le dà fastidio la radio? Mia voce. No, la radio non danno fastidio, le do fastidio io quando parlo. Tra l'altro uso le cuffie. No, ma questo c'ha seri problemi, già. Se ne vuoi partire tu c'ha seri problemi. Allora se parlo con mia moglie a letto, cosa mi deve dire cosa? Non ho capito. Vuole comandare in casa mia, sta secco lui. Quindi se tu fai danzante sentilo. Beh, è un muro fino Massimiliano, che poi tutti le camere da letto separano. Se lo sento io russando la notte, se abbiamo un zappo in bocca, è un bel pucco. Tu regali dei gufi e dici, già caricando io sto facendo zanzan. Cappagatto, io. Vabbè, la gente è esaurita. Intanto non gli hanno dato retta perché ha chiesto una riunione e nessuno ha voluto firmare perché dice che io non le do fastidio, il problema è suo, boh. Te lo sto dicendo io, quello che c'è sotto. Ho mangiato una domina in bici, io per andare in bagno, lavorare, prepararmi. E ora c'è in bici a burletto, gatto, mi ha drogio. E va giù. E cosa voglio tenere giù? Ma sono anche volte le ore. E facciamo certe peggiorate. Mi dimentico. Mi dimentico che io. Fai una bella tromba comunque. Se tu vieni a aprirti un'altra la musica, io dico. Tu lì la monisci il silenzio a Torino. Invece c'è un bacio di fronte, ci ha disegnato il è entrato lì a fuori. C'è questa tosse allucinante, questa che prende. Guarda, io ho passato delle notti brutte, gli occhi te ne escono, la tosse secca, sembra che le vittorie chissà che cosa, non ci sia niente. E ti fa uscire gli occhi, piange anche, ti escono le lacrime. Cosa stai dicendo? Brutta, brutta. Mi ha tutto un progetto. Non c'è un peso, una tacchettina. Vediamo se mi passa. Una mattina prima da lavoro mi prendo un Actifed. Così mi blocca. Mi raffreddore, proprio raffreddore, senza niente. Non è che avevo niente, mangiato dove ho giocato. Sì, mangiato. Però sto mangiando male perché c'ho dei buchettini nel palazzo, quindi tutta la roba che mangio frega lì sotto e mi sta facendo impazzire. Quindi adesso anche il cioccolato, ne ho mangiato un pochettino e l'ho mollato. Ma no, domani lavori? Io? Ma tra l'ora io? Sì, sono entrato oggi, Massimiliano, ho lavorato sabato, l'ho preso domenica, lunedì e martedì. Non ci riesco a stare a casa, ci riesco a stare a casa perché mattina c'è l'arpa, ci sono io a fare un casino in Gesù Cristo, c'erano i campionamenti, poi c'avevo da andare in tipografia alla Galizia a ritirare tutti i registri e quindi oggi la macchina a caricare i registri di conduzione, domani mattina devo scaricare a Sorso e mi si accumula troppa cosa, capito? Non me lo posso permettere di stare in prigione a casa. Ho fatto due più domenica, lunedì e martedì, oggi sono rientrato, anche se ne avevo voglia un po', sono rientrato, tanto non ho fatto grandi cose, proprio le cose necessarie all'ufficio e di cantiere. Adesso domani giovedì c'è un sopralluogo lì a Trinità, di una isola rosa, a Padoletta, nel mio comune, sono dei lavori, a controllare l'impianto, ne ho rotto di balle, che spaccherebbe. Non so bene cosa va a me qua, che... Non piace, guarda, che mi dava gli orgogli, ma... Tu pensa che io sono da ottobre fino a oggi che non ho mai staccato il martellone, sono sempre la sede di butta, figurati. Fatto 8 ore, 9 ore, sempre tutto il giorno, dalla mattina alla sera, sempre martellando. Ma cazzo, no gridino. Da ottobre sono lì. Vibra l'interno, Massimiliano. Un po' vibra. Capito, un po' vibra. Ma meno male, cazzo, mi accendo la radio, oppure magari al telefono con le cuffiette, così, e mi passo un po' la giornata. Cazzo, a chi se no ti ammazza, eh. Vabbè, le vibrazioni ci sono. Vibro massaggio, Ah, sai, quando lo telefono, o mi chiama lui, e mi vibra la vecchia, mamma mia, ragazzi. E cuffie invece, Massimiliano? No, va lì. No, ce li ho dentro lo salvatore perché è obbligatorio. C'ho le cuffiette, c'ho la casacchina, vabbè, la divisa che la dobbiamo tenere obbligatoria. Ci abbiamo l'estintore, la cassettina pigiama, quella, il pronto soccorso, là, quello, il primo pronto soccorso, là, quello è una cosa obbligatoria. Ma e come fai a togliere quelle cuffie dentro la cabina? Non fanno. Ti fanno sudare, no? Fanno sudare, in più danno fastidio, capito? Danno proprio fastidio. Ma evitano di farti sentire il rumore martellante, proprio tutto quel rumore lì. Sì, chi se gli si batta un po' con la radio, ma c'è lo stereo e è un po' copre. E il cazzo si va a giocare tutta la vita con le cuffie in capo, no? Cappa, e poi intanto non si deve mai distrarre, perché quel lavoro lì lo sai com'è, bisogna sempre stare con gli occhi aperti. È quello che ti stanca a me, più che altro mentalmente, mi hai capito? Quando basta un coso a vuoto e si taglia di mettere la punta, esatto, e ci ho buttato la giornata, perché la punta quel martello lo faccio io, costa 1500 euro. Ma perché a voi la fa pagare? Se è una cosa che rompi tu per colpa tua, non è che la paghi tu, però diciamo che ti rompono le scatole, capito? Cioè, se spacco un vetro perché mi è arrivata una pietra, quella non è colpa mia, cazzo, la pietra arriva e già va bene così, ma secondo me per come la rompi la punta, se è per colpa tua ti dovrai pagare. E dove siete adesso? La Sassari Urbia all'inizio, dopo la salita di Sacaglia, quindi la pianura, dopo c'è la centrale dell'Enel e noi siamo a sinistra in quella cava di sabbia preparando materiale. Ah, ecco, ho capito. Vabbè, quindi la Sassari Urbia sta continuando, sì. A luglio sta continuando, ma lì verso luglio, diciamo, dove c'è l'aeroporto, mi hanno fatto già un bel pezzo. Mi sembra che fra due mesi iniziamo a asfaltare, mi hanno fatto già 15 km. No, lì sono già a buon punto. Adesso il prossimo mese noi partiamo lì a Monti, capito? Ah, all'aeroporto c'è la strada diretta. Unico Daniela, cosa Monti? Vabbè, a Berchita, va. Fa Berchita, io monto e in più lei mette su canale. E sì. Vabbè, è da Val Canale, io monto. Bravo, fai Rosario, fai che ciacco. La mano più grossa è la doia, hai visto? No, noi abbiamo il tratto Monti su canale. Sono oltre 6 km, in più ci abbiamo Ardara o Fieri, e più ci abbiamo l'altro pezzo che va prima di Ardara a lì a Plago. Ci abbiamo due lotti abbastanza grandi da fare, quindi gente ne serve un bel. Ma più di appaltatrici scelte? Tutta una non ce la fai, no? Come fai? Noi, per esempio, il lotto che ci abbiamo noi è proprio il nostro, ha vinto la mia ditta. Hai capito? Lo facciamo noi, però insieme ad un'altra ditta che ha dato subappalto il mio principale. Se no non ce la fai già. E quanti mesi ti servono per fare una cosa del genere? Ma se ti devi indebitare fino a un casino, troppi mesi ci vogliono, hai capito? Non ce la fa a tenerli, a seguire neanche. Vabbè, così lavorano più persone. Lavorano più persone, in più tu c'hai quei mesi e ti segui quelli, capito? Poi l'altra ditta che entrerà a lavorare cosa ne metterà? 10 e se li segue la ditta che entrerà. Ma noi guarda, dobbiamo arrivare a un'ottantina di persone. Siamo già a 25, fate il conto che anche basso ne devono entrare ancora. Ma le prende solo per questo appalto qua, così? Sì, li prende per finire questa strada e poi le prenderà a tempo determinato a fine lavoro, va? Capito? Vabbè, poi se no dopo lui, una volta finita questa strada, cosa fa? Si tiene con la gente lì, e se non c'è altro lavoro, noi la facciamo. Casino, e tu capo di Bugnei, cosa sei belli? Non da, devo, mi sto fumando una sigaretta, che sono le 11, ancora un po', e poi si mi hanno, sto dicendo Massimiliano, ma la punta del martello è Vivian. Cosa qua, la punta? Vivian, cosa non si dice, la punta del martelletto. Ah, cosa Vivian, sono acciai temperati quelli, capito? hanno una pentola, se no gli si con due colpi si facciano, no? È tutta una fusione, hai capito qua? Sono scaldati, messi dentro una presa, fatti raffreddare, di nuovo riscaldati, sono acciai temperati, capito? Se no non è come il distrofiga che taglia pietre e così via, non è quello che stai dicendo. Quello lì si chiama catenaria, quello che stai dicendo tu, cioè i denti a vidi, capito? Quello che fa, cioè quello macina la ruccia, però ha diversa cosa, un diverso lavoro fa, va. Però quelli hanno proprio i denti vidi. Se sono quelli a punta e quelli a taglio, perché cosa serve? No, io sto usando quelli a taglio. Quelli a taglio entrano di più nella ruccia, no? Quelli a punta servono per spaccare i massi, perché sennò secondo il masso che spacchi, se tu lo fai con la punta a taglio ti schizza, capito? Schizza le pietre e ti spacca i vetri. Invece facendolo tipo a matita, a punta così, schizza di meno, hai capito? Quando tu metti la punta su un masso calcario, i primi colpi che danno, il tanto di farsi il posto la punta, schizza le pietre se le parti, e se ti prendi il vetro te lo spacca secondo che pietra arriva, capito? Vabbè, certo, facendo il buco invece le frantuma e poi le puoi spaccare meglio. Sì, addirittura per staccare i massi si usa proprio piatta del tutto, capito? Ne tagliano proprio a mola, a cannella, ne tagliano proprio il taglio della punta, o la usano proprio piatta, là. C'è il taglio, senza aver taglio. Subito gris, tu pensa quando lo facevano a mano, ma si vedeva. Ma lì non ho cosa a fare a mano. Quando bisogna 6 metri di rocca, come ti va a fare la mano? Quando c'aveva martellone da 40 quintali, non è che c'aveva martellone così di meglio. Spacca pietre c'erano prima. Chissà come ci va a sviare, boh. Ho ritirato Massimiliano l'altro giorno da Olbia, sono arrivati con la nave. I cingoli gommati del mio scavatore, cazzo, 2300 euro. Ti ricordi che ti regalo? I cingoli gommati, quelli sono rivestiti, perché poi la catena è di ferro, qui. Ho visto come è fatta la catena. Ma non deve essere neanche così tanto grande il mini escavatore, perché 2300 euro deve essere un escavatorino da una ventina di quintali, così è. Sì, mi piace avere 25 quintali, ci serve per fare le tracce quando mettiamo i tubi, capito, il polietileno, per fare quegli scavi fini, con la bannetta piccolina, con la freddo. Cazzo, mi piace il fatto di mettere la vattura, 2300 euro, Maria, che ho detto, leggerimi, non erano pesanti come 5. Ma costano perché sono rivestiti, capito, in questa gomma che sembra morbida, ma invece è dura. Quella non fa danno, va. Se tu passi in qualsiasi punto con quell'ingomma non ne fai di danno. Noi ne abbiamo uno da 50 quintali che le hanno ordinate, diciamo che costano intorno ai 5-6 euro. Però un 50 quintali ve lo abbiamo noi, ne abbiamo un 50 e un 30, un 36, no, un 35, un 35 e un 50 abbiamo. No, bene, ci abbiamo due grossi, non so quanto siano perché non me ne occupo io, e poi due piccolini, mi pare siano tutti due uguali a 20 o 25, e ci siamo per fare lavori interni così, se no ce lo facciamo tutti in tancia, quello grande, ma comprando un nuovo tra l'altro, adesso quello nuovo, non l'ho fatto che ha preso, ma pare da pigliare 100 milioni di euro. Ma chi c'è? Ah, vero? Perché ho visto delle foto su Facebook di Tony Modi, già lo sai che lavora con loro, mi ha detto, sto facendo, c'è scritto, sto facendo più ore dell'orologio. E c'era una penna dentro, dentro un buco, sicuramente c'era qualche tubo rotto, stavano sistemando, ma di uno scavatore nuovo sicuramente. Sì, sì, uno scavatore nuovo, aveva arancione, ho visto. Bello nuovo, nuovo. Sì, un lavoro, tutto il mondo di Sardegna mi ha preso, vabbè, la capocommessa è sempre azione, loro sono in atti, associazione temporanea di interesse, la capocommessa è azione, 100 milioni di euro, io sono contento, almeno sono di tre sarde, lavorano, perché stava scendendo troppo ultimamente, aveva due o tre lavori e aveva finito, quindi sicuramente avevamo la casa. Invece adesso ho visto che gli hanno dato questo nuovo patto non di Sardegna, quindi ne ha da fare. Sono tutte le condotte nuove, tutte le manutenzioni, le cose. Tra l'altro sono tre impianti nuovi da fare. Ma vedi, tre mica è sempre presa, quindi. Già ne hanno da fare, già ne hanno, sono contento, io ci ho lavorato con loro in prestito, naturalmente in una società molto interessante, hanno di tutto di più, non ti manca niente, pagano bene, per me a me pagavano più di quanto sto prendendo adesso, io seguivo le stazioni di pompaggio, ho preso molto oro, trucco reale, insomma tutto. Una trentina arrivava, campamento, la corte, la pedraia, tutto quello che avevamo. Si lavorava molto bene, ma ho pensato, lavoravo con loro, mi qua c'è troppa gente che comanda, capito? I tintinieri, i visori, che mamma mia, che Sant'Antonio mio. Puoi farmi cazzare perché sì, sono brave persone, ma hanno anche poca esperienza. Vado a Bogo da Milano, non so manco di che fare bene, anche stamattina mi ha chiamato, meno male che è rientrato, stavo andando in palla, e i geni non si preoccupano, perché più di me avevo del letto rispetto, no? E non si preoccupi, geni, piano piano, quando lei mi dica, quando sa tutto così io me ne vado, no, non si muova da qui Marti, mamma mia. Ma come si ieri? E non le cose ne usa. Ieri idraulici sono, capito, stanno con la carta alla mano tutto il giorno, ma è molto lavoro, sì, la carta è molto importante perché quando magari ti passano qualche disegno di qualche struttura, di qualche linea, di qualche condotta, devi conoscerla, ma io la conosco perché ho l'esperienza sul posto di lavoro, in quanto mi dici vai c'è una perita per dire in via Palomata a Trinità e sta tracimando solamente, io so già dove mandare la Trinitana, quando chiamo dire mica c'è un lavoro da fare così e così, la prima cosa che ti dicono è da quanto è la condotta e tu devi sapere rispondere, e se ne accorgi nei telefoni già in niente. Menzionate da quanto è la condotta che attraversa il Balda, Sino, Sollevamento di Ingegnere, l'oggetto, Travolto, l'oggetto, no, adesso me lo segno, a Guidolini mi vorrà domandare, è gente che non vive proprio sul posto di lavoro, capito? Di pratica non ne ha molto, si guarda una carta, poi tra voi due dedici si dimentica che ci vuole vigito. Io infatti crai così, è così, ma anche a me mi capita un giorno che cosa ragione a fare degli scavi, a volte le quote cose me le faccio io, capito? E non sono buono manco a darmi una quota, che iniziano, ma questo va fatto così, poi lo metto in pratica, è un travaglio magari da 5 minuti, allora per fare due calcoli, due scarpate, tre su due, poi mi muovo nei guasti due lì, e tu magari al lavoro in mezz'ora. Così, avanti Gianni. Gianni si è rimuto, sicuramente. Non c'è più whisky. Era. omogeneo. Mi è paruto la volta. Poi a chi va la legge Benusi, un preso. Ho capito, tutto a posto, tutto a posto. Ci tira a campare. A noi, sì. Ma la legge Benusi, sì, Bologna. Perché siamo così male? No, claro, tu fai lo ascolti. Io un po' impazzato. Anche io ti sento... Ma ti ho sempre sentito benissimo, Algeri. Prova, Algeri, prova. Adesso non so se è perché è appena acceso, non sei chiaro, no? Allora magari che è spolverando, ho toccato il mitico della RAI, buco qualcosa, non so. Non lo giaccio. Bene, mi ascolto a me. E un po'... Cioè, la voce è tutta... un po' più racchiante ti ascolto, non sei limpio come l'altro volta. Non lo so, ti ripeto, qua non ho toccato niente, tra tu cosa mi dici? E io un po' occupa, ma abbastanza comprensibile, la gente mi occupa, poi c'è anche la batteria, un po' scarica, anche io ti ascolto un po' così, ho tolto un occhio dal filtrino che c'è nella radio, ti ascolto un po' meglio, ma rispetto ad altre volte anch'io, ma nulla, non ti preoccupare, non fare un allarme, non ti preoccupare, noi siamo figli, capito? Ci piace ascoltare bene, ma gli altri non va bene, fastidio. Io ci avevo Gianni Dromi, Gianni Dromi. Dove finisci? Oh Massimo, qua c'è ancora la batteria di quando mi hai dato tu il microfono, non l'ho mai cambiata. Allora potrebbe essere la batteria scarica del microfono, oggi se ancora quello che ho fatto io. Ora si pure che sta iniziando a scaricarsi e si fa questa voce gracchiante, hai capito? Non ho capito, domande di acca, a parte che la forse proprio la batteria c'è la scelta del come si chiama? Dello smitterino del microfono che non sale neanche sul rosso, vai. Non va neanche sul rosso? Cioè, quando vai a modulare come si muove? Si muove, impazzisce? Sì, però non rimane nella scala nera. Di solito saliva proprio di brutto sul rosso. Adesso se sale nella scala nera, Allora c'è la batteria scarica. Sì, domani a cambio, vai, domani a cambio. È comprensibile, cazzo, va arrivato, mi ha pugnato, si sente, mi accorgerà, avanti. Cazzo, ma non dorme. No, non è dorme, no, dai, no, che non si fa male, non è tuo. Tu ti sei volato il volume, andate a dormire. Ah, sì, aspetta, che sono io, le cucce, guarda, aspetta. Mi viro un grado. Andate a dormire. Non ti ho sentito, vieni io. Andate a dormire. Presto, niente, Ghida. Ah, presto, Evani, presto. Vabbè, tu non fai nulla domani a mangiare. Ma Massimiliano deve riposare. Che dici tutto il bicino. Ho compreso che a 5 minuti, alla poi me l'hanno accusato. Hai devo rimanere questo ai 4 mangiare. Ah, uscire, no. Immagino da finire la legge, io voglio silenzio. A proposito, signori, dai, si vedi in buco, io mi stanno a coricare che è meglio, e domani mattina mi devo avvisare 4. Ciao! Ma tu sei andato, Mugni? C'ho il bestiame lì. Ha fatto una vecchia? No, ha fatto i pizzini, mi piace, non ha fatto una vecchia. E io mi alzo un'ora dopo di te, mio genio, quindi non ti chiedi chi vuoi lasciarmi, 5 anch'io, 5 e mezzo, sempre lì c'è la sveglia. Ciao genio, buonanotte, cambia la batteria comunque, ma stai andando bene, è un po' cupa, ma sicuramente è causato dal voltaggio della batteria, cambia di là, e vedrai che funziona bene, avanti Massimiliano. Ciao G, ci sentiamo, dai, buonanotte, buon lavoro per domani, dai. Ci sentiamo alle prossime. Ehi, cambiato tutti quanti, ciao e buonanotte, ciao. Ciao G, a 2:20, ci sentiamo. Ehi, Ciao a tutti, wow. No, mi pare che non lo buro io, la sveglia su una porta, cosa fai? Tu non fai con l'acqua e radio? Ma acceso lascio io. No, sei tre giorni, se non trovo tutto, morivo, ma era quelle cane, se già dove c'è il quarto. Non è che all'interno non sta mezzanotte, d'ora. È tutto spento, c'è solo quella accesa. Sono sia tanto c'è acceso, non si vede, è tutto da spento. Se te ne vai tu, me ne sto andando anche io, capo. Ma io poco fa stavo un po' orecchiando da altre parti, ma sono come un momento, va. Poi, se non ci sono io lì come stavo sempre, la mattina e la sera, c'è poco traffico. Se quando chiamano io rispondevo e quindi tutti entravano. No, preso lui e non avevo più giù. Ma non mi interessa. Voglio stare un po' per i fatti miei, non voglio stare sempre lì, capito? Se no poi mi stanco e via. Perché ogni tanto bisogna girare un po' da una parte all'altra. Sì, se l'avessero fatto un po' tutti magari sarebbe stato più bello, no? Un po' lì, un po' qui. Solo che secondo me qua c'è più divertimento per me. Qua sono le persone giuste, fai due chiacchiere, già va bene, lì è un diverso, una diversa cosa, però diventa monotona, allora è sempre le stesse cose, ho provo, ho comprato quello, ho comprato quell'altro, ho montato questo, ho montato quello, alla fine ti si gonfiano le balle, capito? E quello che stai dicendo, i discorsi sono, vabbè, i discorsi sono quelli perché dico già tutto una vita, ho comprato la radio nuova, il microfono nuovo, facciamo due prove, facciamo lì, facciamo lì. Non si parla così di lì. Qua per male poi fa vita di meta, di culo, di altre cose, invece. Vava, domani faccio Vava. E anche mi sono già fatto la Vava, domani. Poi già si la mangiano, anche io non mi mangio, non mi piace. Sì, guarda, cazzo, cosa lì, domani, cavolo in verba, pancetta, salsiccia, di tutto quello che andiamo. Domani, come rientro a lavorare, boccione del vino e su che andiamo. La Vava no, ma il condimento sì. E pappa delle mutande, va raccolto. E me la similia. Ciao, dove rientro? Claro, condimento sì, la fava anche a me piace, mattina, ma condimento sì, ma anche un po' di brodo, ci mangi il pane in mezzo, non me la facevo qualche anno fa, buona, ci metteva la salsiccia, di tutto, tutto il condimento, la carne, io mangiavo tutto questo e il resto le fave se le mangiava lì. Io già voglio che le fave, ma come me ti piace un barre di buco, salsiccia e tutte cose. Domani metto il dinero davanti, sono dietro al lavoro e mi riguglieggio. Allora poi mi tengo, ci abito il culo. Ma domani ci vuole di grasso, anche domani si lavora, no Massimiliano, non è fretta. Domani si lavora, martedì è che non si lavora. O martedì prossimo o giovedì prossimo. Ma sai che guardo? Che cos'è il rosso? Eia. Due gattoni, quanti ho? Allora, di Sassari ogni mese hanno riciclo. Cosa? Eh? No, nei Sassari hanno riciclo. Ma già lo dissi, le donne di Sassari non immaginano l'emiciclo. No, non siamo oggi buttati una vecchia pirigna, speriamo che possa avere. Ma guardate, sì. Ah, freddore e ciocca, no, non va a lavorare. Ah, un mucco di radica al gioco. Una battuta di mangaglio di bocca. E c'è un rivolto, c'è un rivolto. Cazzo, io lo va a bloccare, ma dimmi tu. Che se c'è. No, non ci blocca il duero. No, ma comunque è boh. Allucinante. Ma stava scherzando. Infatti mi stava scrivendo in privato. Mi stava scherzando. E l'ha bloccata. Chiss. Guarda, una mia amica che ha vissuto tanti anni giù alla Riviera. Ci ha fatto di nuovo impresa, io. Ma boh. Ma boh, se vuoi nuda, sempre maloso. Sono problemi loro, ecco. No, no, no, stavo sbagliando, non è segnato il rosso, si lavora. Ma io chiamo, se non c'è l'agenda con tutte le festività, perché magari poi me le chiedo, non mi serve, quindi guardo, ho visto stamattina e non c'era niente nel mese di marzo, l'8 marzo è festa, l'8 marzo, ma non abbiamo nulla noi. Non ti compresi un cagare, sta bloccato lì, no? Oh, la guida ha bloccato, la mamma ha cancellato. Cazzo, roba, cazzo. E poi ti non piace a lui. Ma che mi sta lì? Era di tutta. Io avevo scritto che stava scherzando. Ci mancherebbe. Poi siccome lui se l'ha presa sul serio, ma più va, mira, se l'ha presa te cosa, va. Vabbè, è un mondo che non mi piace a me questo. No, ma non so che saluti la mia sorella. Di andare, sì, e andando al vero. Non ho voglia di stare, di andare a destra a sinistra. L'8 marzo è fretta, Massimiliano. Ma credo che non sia in rosso. No, non è nel rosso e poi anche di sabato, infatti, quindi anche se è il rosso e di sabato vado in affitto, nel cavaliere e via. Giovanotti, ciao lui, io vado a dormire che la sveglia suona a presto. Ciao Clan, ci sentiamo domani se coincide. Lui, la radio bene sta andando, sì, prima di chiudere. Venga, io so. Vabbè, picchi positivi, sì. Va bene, va. Ma 3% qua, basta. Maestro, il tuo spalliere, va, maestro. Basta, la pressione a Bucanti. Quando ti capita che sali, allora per suicidio, mettetela in macchina. Per le discorrere di commutazione. Faccio sentire il tic come è questo, come si è tanto. Lavora meglio la radio. Cosa vuol dire questo relè di commutazione? Ma è cosa del microfono, quando apre il microfono? Sì, il relè c'ha l'automatismo che c'ha, che non glielo inserito. L'automatismo che c'ha del TTT, capito? Lavora meglio. Andare, me la metto in macchina e niente, lo rifacciamo, mi arrabbio, perché? No, la faccio la macchina e te la porti via, devo inserire solo l'interruttorino, c'è un interruttorino, capito? Così lavora meglio, non c'è problema, no, stai uscendo una chiamata, si è venato. Ma la prima vita, gente dice che si arrabbia, mi pare che lo voglio vedere a cari gamboni. Ah no, mi pare ma Giovanni a pista. No, no, il primo giorno non mi piaceva per niente. Adesso la musica è già cambiata. La cosa va bene, anche nell'amperometro vedo che va positivo e tutto a posto. L'unica cosa che non riesco a capire, il crescendo arriva a 70 watt e modulando i gatti supera i 100. Che ha già fatto sul parlato, capito? Cioè, Cusciano va nel mobile areno, allora addirittura ci avevi fendi, avevi ci ribasso la macchina. Vicino mi ha detto, oh mare, va bene, là, tanto che c'è un bel casino qua. Dai Claudio, ci sentiamo, buonanotte, un abbraccio, un saluto a Correa. Ciao Luca, anche a te, buonanotte, ci sentiamo nel prossimo, Marco. Ciao Massimiliano, saluto a tutti lì, siamo già in trenda. Ci sentiamo, ok, anche io spendo tutto e vado a dormire. Ciao capo di Bonier, mi raccomando, notte mangia di banani, quanti fai due canotti, mangia di banani. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao Massimiliano, buonanotte. Vado male, ciao ciao. No, io ti ammaglio qua. Ciao, sono più rotto. Ciao, ciao, ciao. Lei uno ce l'ha con la bomba nel naso già. Ciao, ciao, attaccando le capo dal cuscino. Ciao, ciao, buonanotte. E se non si riotta nel campo, lo buco. Ciao, ciao, raccomando, non mangiate le banane, di notte mangiate le banane, forse è vero di andare in bagno pure io, ho mangiato la bizza, mamma mia, forse è andata.